contro gli anarchici, perquisizione in varie città per individuare i responsabili delle devastazioni di sabato a Roma. Di Pietro, servono leggi speciali. Aumentate di oltre l'80% in 4 anni le richieste di aiuto alla Caritas e aumentano i poveri fra i giovani. Ucciso un missionario italiano nelle Filippine, le sue lotte sociali davano fastidio a molti. Il Nord-Est si conferma amico dell'ambiente, Venezia, Bolzano, Belluno in testa nel 18° rapporto Legambiente Sole 24 Ore. Buongiorno dalla redazione di GR24, buongiorno da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque dagli scontri di sabato a Roma, anzi ripartiamo dalle conseguenze degli scontri di sabato. A Roma si contano infatti danni, mentre in tutta Italia questa mattina perquisizioni negli ambienti degli anarco-insurrezionalisti. In diretta Laura Bettini. Buongiorno, sì, nel giorno delle grandi perquisizioni nazionali è arrivata anche la notizia di 6 fermi in Toscana. Ieri sono stati fermati dalla Digos e dalla Polizia Stradale di Firenze 6 presunti anarco-insurrezionalisti a bordo di un furgone che rientrava da Roma verso Bologna, quanto pare. Sul mezzo sono state trovate maschere antigas, abiti scuri, un martello, protezioni di vario genere. E proprio per scovare materiali come questi oggi sono state compiute le perquisizioni di cui dicevi, controlli in abitazioni e luoghi di ritrovo di persone appartenenti all'area anarchico-insurrezionalista di tutto il paese. Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Livorno, Napoli, Palermo sono solo alcune delle città in cui si è svolta questa operazione. Si cercavano appunto materiali come quelli che dicevamo, ma soprattutto armi, munizioni o materiali esplosivi in base all'articolo 41 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Tutti gli interessati da queste perquisizioni riferiscono però anche di una particolare attenzione a supporti informatici e capi di abbigliamento che potrebbero diventare anche un utile riscontro rispetto alle immagini in possesso delle forze dell'ordine. Immagini, ricordiamo, molte delle quali trasmesse da altri manifestanti rimasti loro malgrado coinvolti negli scontri. Per quanto riguarda le 12 persone arrestate il giorno della manifestazione, dovrebbero essere chieste oggi la convalida dei fermi e l'emissione di ordinanze di custodia in carcere. Tutto. Grazie a Laura Bettini. Quanto accaduto sabato continua ad animare anche il dibattito politico. Si poteva evitare la devastazione di Roma? Si doveva agire di intelligence prima che quasi ci scappasse il morto? In diretta con noi Andrea Viali. Sì, dopo l'iniziale condanna bipartisan delle violenze a Roma, nei commenti del mondo politico in queste ore trovano sempre più spazio anche le polemiche, in attesa di ascoltare quanto dirà al Senato domani il ministro dell'Interno Maroni. Dal centrodestra si chiede di isolare i violenti e individuare i loro cattivi maestri, ma si chiedono soprattutto pene esemplari per i black bloc. Sentiamo a questo proposito cosa ha detto stamattina il sottosegretario all'Interno Mantovano. Quello che posso auspicare è che non ci sia il bis del 14 dicembre, perché finora nel sistema sicurezza una lacuna è costituita dalla risposta giudiziaria, che è stata risibile, è stata in certi casi irridente nei confronti anche di chi ha subito, cominciare dalle forze di polizia, i danni più gravi. Anche Di Pietro dall'opposizione chiede pene esemplari, il leader dell'Italia dei Valori propone di varare leggi speciali come la vecchia legge reale, che prevedano arresti obbligatori e riti per direttissima per i manifestanti violenti. Dal centro-sinistra però, come dicevi, si levano anche critiche al governo per la gestione dell'ordine pubblico e soprattutto per le lacune che ci sarebbero state nel lavoro dell'intelligence, che non è stata in grado di capire, di prevedere quanto stava per succedere. Questo per quanto riguarda la politica, ma oggi una condanna dei fatti di sabato arriva anche dalla Chiesa, dal presidente della Conferenza Episcopale Bagnasco, che ha definito esecrabili gli scontri avvenuti a Roma. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. E stamattina chi ha esercizi commerciali nella zona degli scontri di sabato fa la stima dei danni. Ieri il sindaco di Roma Alemanno aveva parlato di circa 1 milione di danni. Giuseppe Roscioli, presidente Confcommercio Roma, al microfono di Francesco Marinelli. Abbiamo 2 tipi di danni, sicuramente quelli fisici, quindi vetrine distrutte, saccheggi, incendi che hanno creato dei danni che bisognerà rifondere a chi li ha subiti. e poi ci sono tutta una serie di danni di tipo economico che invece sono per i mancati incassi, purtroppo dovuti al fatto che questo tipo di manifestazioni, ma non solo queste, diciamo tutte le manifestazioni impongono che ci sia una chiusura degli esercizi per motivi di sicurezza. Siamo intorno alle 1 milione di euro per quanto riguarda proprio i danni fisici riscontrati sugli esercizi, con delle perdite anche dovute a delle effettive non vendite diciamo reali. A dare il nome al movimento degli indignati è stato un libro francese, Indignez-vous, uscito un anno fa. L'autore è Stéphane Hessel, 94 anni, partigiano, scampato ai lager nazisti, ambasciatore di Francia, redattore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Uscito in Francia con una prima tiratura di 8.000 copie, ha raggiunto ora i 3 milioni di copie nel mondo. Eccone un estratto. Hanno il coraggio di raccontarci che lo Stato non è più in grado di sostenere i costi di queste misure per i cittadini. Ma com'è possibile che oggi manchi il denaro necessario a salvaguardare e garantire nel tempo tali conquiste, quando dalla liberazione, periodo che ha visto l'Europa in ginocchio, la produzione di ricchezza è considerevolmente aumentata? Forse perché il potere dei soldi, tanto combattuto dalla resistenza, non è mai stato così grande, arrogante, egoista, con i suoi stessi servitori, fin nelle più alte sfere dello Stato. Le banche, ormai privatizzate, dimostrano di preoccuparsi anzitutto dei loro dividendi e degli stipendi vertiginosi dei loro dirigenti, non certo dell'interesse generale. Il divario tra i più poveri e i più ricchi non è mai stato così significativo e mai la corsa al denaro, la competizione, erano state a tal punto incoraggiate. Il motore della resistenza era l'indignazione. Noi, veterani dei movimenti di resistenza e delle forze combattenti della Francia libera, ci appelliamo alle nuove generazioni perché mantengono in vita e tramandino l'eredità e gli ideali della resistenza. Diciamo loro: ora tocca a voi, indignatevi. I responsabili politici, economici, intellettuali e la società non devono abdicare né lasciarsi intimidire dalla dittatura dei mercati finanziari che minaccia la pace e la democrazia. Restiamo in Francia perché due dipendenti di Pôle emploi, il servizio di collocamento pubblico francese, sono tenuti in queste ore in ostaggio da un uomo in un'agenzia dell'undicesimo arrondissement di Parigi. L'uomo in una lunga mail ha spiegato di non rappresentare alcuna ideologia politica, alcuna religione, di essere un francese medio, di cultura media, senza talenti particolari, ma costretto da qualche anno al precariato costante a causa della sua età, certamente un handicap nella ricerca di lavoro. I contratti a tempo indeterminato sono introvabili, scrive. E chiudiamo qui questa lunga pagina dedicata ai fatti di Roma, alle manifestazioni degli indignati, non prima però di avervi ricordato che potrete ascoltare altre interviste, altri approfondimenti in Italia in Controluce, in onda alle 13.30. E restiamo però su argomenti affini, perché in 4 anni, fa sapere la Caritas stamattina, dal 2007 al 2010 sono aumentate di oltre l'80% le richieste di aiuto rivolte ai centri di ascolto, appunto, delle Caritas diocesane. Fra gli italiani l'incremento è di oltre il 42%, mentre fra gli stranieri si registra quasi il 14%. Monsignor Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italia, al microfono di Adriana Fracchia. Innanzitutto viene sottolineata questa presenza di povertà relativa attorno agli 8 milioni e 270 mila persone, più una povertà assoluta del 5,2% degli italiani, cioè circa 3 milioni e 150 mila persone. Sono aumentati gli italiani, c'è un ritorno degli stranieri a frequentare i servizi della Caritas perché hanno perso lavoro. Quello che preoccupa soprattutto è che delle persone incontrate, ascoltate, si ha a che fare con interi nuclei familiari. Un buon 13,8% di queste persone sono nuclei familiari che la crisi economico-finanziaria ha messo nella condizione di cascare in precarietà e fragilità. L'aumento forte di nuovi poveri, cioè di questi nuclei familiari, è legato al territorio del Mezzogiorno, un più 74%. La nota, direi così, preoccupante, una crescita del circa 20% dei giovani al di sotto dei 35 anni. Caso Lodo Mondadori, gli ispettori del Ministero della Giustizia hanno chiesto alla Corte d'Appello di Milano copia della sentenza con cui la Fininvest è stata condannata a risarcire la CIR con 560 milioni di euro. La richiesta è arrivata dopo che Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, ha presentato un esposto per conto di Fininvest sia al Ministero della Giustizia che al Procuratore Generale della Cassazione. 55 persone stanno ricevendo l'avviso di chiusura indagine relativa al filone dell'inchiesta sui grandi appalti che ha analizzato la gestione della Banca Credito Cooperativo Fiorentino, di cui è stato presidente il coordinatore del PDL Denis Verdini. Fra gli indagati, oltre a Verdini, anche Marcello Dell'Utri. Ed ora sentiamo come vanno questa mattina le borse. In diretta Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti. Le borse europee stamattina erano partite molto bene, poi hanno cominciato a ridurre i guadagni dopo che sono state divulgate alcune dichiarazioni del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, secondo cui il 23 ottobre non arriverà una decisione finale sul programma di salvataggio dell'Eurozona. Auspicio che è stato formulato con grande chiarezza nel fine settimana appena trascorso invece a Parigi nel corso del G20. Queste dichiarazioni del ministro delle finanze tedesco sono state suffragate anche dal portavoce del cancelliere tedesco Angela Merkel. Secondo quanto riportato questa mattina, avrebbe preannunciato la Merkel anche su questi temi un intervento di fronte al Parlamento tedesco nella giornata di venerdì. Il portavoce della Merkel avrebbe detto: sperare che il prossimo meeting europeo possa portare ad un accordo che risolva tutti i problemi della crisi del debito è un sogno impossibile. Dicevamo appunto, su questa indicazione la borsa europea ha rallentato notevolmente il passo. Londra guadagna lo 0,5, Parigi adesso è negativa per lo 0,10%, Francoforte perde lo 0,7%, è arrivata a guadagnare oltre un punto e mezzo, e anche Milano riduce notevolmente i suoi guadagni, più 0,11% adesso sulle FTSE MIB. Rallenta notevolmente il passo anche l'euro. Sul dollaro stamattina aveva superato 1,39, adesso è a 1,37,81. È tutto. Maxi operazione contro gli anarchici, perquisizione in varie città per individuare responsabili delle devastazioni di sabato a Roma. Di Pietro, servono leggi speciali. Aumentate di oltre l'80% in 4 anni le richieste di aiuto alla Caritas, si aumentano i poveri fra i giovani. Un missionario italiano, padre Fausto Tentorio, 59 anni, della provincia di Lecco, da oltre 30 anni nelle Filippine, è stato ucciso da un uomo con il volto coperto da un casco dinanzi alla sua parrocchia di Aracan, nell'isola filippina di Mindanao. Al microfono di Katia Caramelli, padre Giulio Mariani, responsabile del centro missionario di Zamboanga. Il suo lavoro era missione tra i Lumad, i tribal filippino, che sono i poveri più discriminati delle Filippine, i primi abitanti, indigenous people. Era un padre per loro, un fratello, un alleato in tutte le loro attività, si è molto immedesimato con loro. Noi affettivamente lo chiamavamo il tribale, perché appunto era diventato in diversi modi uno di loro, una persona che non dava fastidio a nessuno. Però forse a qualcuno ha dato fastidio, perché come mai lo hanno ucciso? Come se lo spiega? Questo non lo sappiamo, però è chiaro che il lavoro con i tribali che stanno lottando per i loro terreni, nel momento in cui le miniere stanno diventando di moda da quelle parti, e naturalmente il lavoro delle miniere tocca la realtà delle terre di queste tribù, che considerano la terra qualcosa di sacro. E quindi naturalmente scoppia quella lotta, no, tra di loro. Ed ora le parole del cardinale Angelo Bagnasco. Non c'è motivo di temere per la laicità dello Stato, ha detto aprendo i lavori a Todi, dove è riunito l'associazionismo cattolico. Per Bagnasco la Chiesa non cerca privilegi, né vuole intervenire in ambiti estranei alla sua missione, ma deve poterla esercitare liberamente. L'assenza sociale sarebbe un peccato di omissione per i cristiani, dice. Non si tratta di ricreare comunque una nuova DC, dice Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento dello Spirito, lo ha intervistato Katia Caramelli. Non è a tema, si tratta intanto di capire come dar vita ad una nuova generazione di cattolici impegnati in politica. Il tema non è appena la crisi dei partiti, ma è la crisi della politica, e l'idealismo cristiano non è in crisi. Questo è un segnale fondamentale che noi dobbiamo dare alle nuove generazioni, e dal momento che la rappresentanza dei cattolici in politica fuoriesce dalle associazioni, dai movimenti, dalle comunità di base, che queste si interroghino unitariamente e decidano di mettere mano a questo aratro così delicato in un momento di crisi così evidente è una buona notizia, ma è il primo passo di un cammino che non è finalizzato nella creazione di un nuovo partito. Qualche giorno fa l'accordo fra Israele e Hamas, domani lo scambio fra il caporale israeliano Gilad Shalit e centinaia di detenuti palestinesi. Alla liberazione di Shalit, prigioniero nella striscia di Gaza dal 2006, Israele risponderà appunto con la graduale scarcerazione di oltre 1000 detenuti palestinesi. Per domani è prevista la liberazione dei primi 477. Battuta in modo netto ieri al ballottaggio delle primarie da François Hollande, Martine Aubry torna da questa mattina alla guida del partito, l'incarico dal quale si era autosospesa a giugno nel momento in cui si era dichiarata in corsa per la nomina candidato alle presidenziali per la gauche. Ieri sera, dando atto a Hollande della vittoria, ha invitato tutti a stringersi attorno al nostro candidato, ha detto. Sentiamo un ritratto dello sfidante di Sarkozy a questo punto da Marco Mustanè, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. François Hollande ha 57 anni, è stato segretario del Partito Socialista tra il 1997 e il 2008, quindi per 11 anni, è il rappresentante dell'anima centrista del Partito Socialista, è un moderato, ha dalla sua il fatto di essere, come dire, un candidato normale, questo è stato peraltro il suo slogan di campagna. E cioè un candidato, un politico vicino alla gente, alla mano, accogliente, simpatico, cordiale. Al contrario, diciamo, tra le sue mancanze, tra le sue carenze, come sottolineano spesso i suoi avversari, c'è il fatto di non essere mai stato ministro e quindi di non avere un'esperienza governativa. È sicuramente il miglior candidato possibile nella logica secondo cui le elezioni si vincono al centro, cioè sicuramente un candidato più rassicurante rispetto ad altri leader della sinistra, ad altri leader socialisti che rappresentano forse una sinistra più di contrapposizione, più dura, diversa rispetto all'anima centrista del paese. Oggi a Genova la presentazione di Ecosistema Urbano, 18° rapporto sulla sostenibilità ambientale nei comuni italiani, stilato da Lega Ambiente in collaborazione con il Sole 24 Ore. La classifica delle città virtuose premia i centri del nord-est, con Venezia, Bolzano e Belluno in testa. Tra i criteri adottati per compilare le pagelle ci sono anche la qualità dei trasporti pubblici, l'estensione e la fruibilità di aree verdi, la qualità dell'aria e dell'acqua. Il sindaco di Bolzano, Luigi Spagnolli. Chiaramente questo ci gratifica perché vuol dire che stiamo andando avanti a lavorare nella direzione giusta. Abbiamo fatto delle scelte pianificatorie già 8 anni fa e le stiamo portando avanti, quella di promuovere l'uso della bicicletta anche in altre forme. Certo, se la potenzialità di fare investimenti cala, perché questa è la situazione, è chiaro che poi si può investire sempre meno. Capitolo fondamentale è poi lo smaltimento dei rifiuti. A sorpresa, diversi comuni del sud battono le città del nord in tema di riciclo. E Salerno è seconda solo al comune piemontese di Novara per efficacia del piano di raccolta differenziata, con un recupero del 71% dei materiali di scarto, punteggio ben al di sopra del 55% fissato dall'Unione Europea. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Siamo riusciti ad ottenere un risultato che credo straordinario, risultato raggiunto sulla base di un piano industriale serio, di investimenti importanti da parte dell'amministrazione comunale, quasi 20 milioni di euro l'anno. La raccolta differenziata costa, al di là di tutte le poesie, costa e costa molto. Abbiamo inaugurato a maggio di quest'anno l'unico impianto di compostaggio che è nella regione Campania per il trattamento dell'umido. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora è il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Bologna, Modena, Reggio Emilia. Sono questi i comuni italiani che collaborano di più con gli 007 del fisco nel scovare gli evasori. E questa collaborazione sta dando i primi frutti. 30 milioni di euro in appena 2 anni recuperati, che andranno proprio a rimpinguare le casse di quelle città. Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Alcuni comuni che sono partiti avvertiti in maniera anche forte, soprattutto per esempio nell'area dell'Emilia Romagna, della Lombardia e anche di altre regioni. Ad oggi hanno complessivamente trasmesso oltre 20.000 segnalazioni. Abbiamo un recupero attraverso accertamenti di oltre 30 milioni di euro di maggiori imposte, se ci abbiniamo a queste anche le sanzioni arriviamo a 60 milioni di euro. E quello che è importante è sapere che il processo e di partecipazione ai comuni fonda la sua peculiarità sul fatto che di quello che l'Agenzia delle Entrate riesce a incassare dalle segnalazioni appunto trasformate in accertamento dai comuni, ai comuni spetta una quota parte. Se finora i comuni ricavavano il 33% delle imposte evase che avevano contribuito a rintracciare, da oggi, dopo la manovra di Ferragosto, a loro andrà il 100%, un incentivo a collaborare di più e una delle forme concrete di federalismo fiscale, perché grazie ai soldi che arrivano da chi non paga le tasse ci saranno più servizi per tutti i cittadini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un centinaio di operai della Fincantieri presidia l'ingresso dello stabilimento di Ancona per protestare contro gli ipotizzati esuberi. Attualmente tutti gli operai del cantiere sono in cassa integrazione e la mancanza di nuove commesse lascia ben poche prospettive. Enrico Pagliarini ha parlato con Leonardo Bartolucci, segretario della FIM CISL Marche. Essendo saltato l'incontro che era previsto in regione, emerge sempre di più che le navi per Ancona diventano una chimera. Su questo è normale che i lavoratori del cantiere manifestano la loro rabbia. Senta, non c'è anche il rischio di una lotta tra altri cantieri italiani, cioè le commesse sono comunque poche e tutti vorrebbero quelle commesse? Questo rischio c'è di sicuro, perché il problema che abbiamo oggi è appunto che Fincantieri ha ridotto fortemente quelle che sono le commesse. Quasi in ogni cantiere c'è uno scarico di lavoro, però noi ancora siamo quelli, come posso dire, messi peggio, perché siamo con un numero quasi totale in cassa integrazione e siamo con un'attività che è ferma da 6 mesi, e proprio per questi motivi qui siamo quelli che hanno bisogno più di tutti di avere quanto prima il lavoro. Ed ora tiriamo un po' il fiato, parliamo di calcio. C'è un fenomeno strano infatti nel campionato, sono spariti i gol e ne parliamo qui in diretta con il nostro Dario Ceccarelli. Allora Dario, così? Sì Piera, c'è un mago che ha fatto sparire, no scherzo, però in realtà ieri nella domenica calcistica 5-0-0 non si vedevano da almeno 20 anni, e questo stupisce perché adesso quando un pareggio è quasi come una sconfitta, perché sono solo un punto, mentre la vittoria dà 3 punti, per cui è una stranezza. Tra l'altro dopo 6 turni gli 0-0 sono stati 11, che è il record assoluto proprio da quando ci sono i 3 punti per una vittoria. L'altro argomento forte di giornata, a parte che mancano appunto i gol, è che mancano i leader, perché la Juventus e l'Udinese, sfrenate sullo 0-0, hanno rallentato il passo. E poi niente, l'unico acuto viene dalla Lazio, che ha battuto la Roma, ma prima la Lazio aveva avuto i suoi guai. La Juventus vince col Milan, ma poi pareggia col Chievo, e il Napoli subisce l'effetto Champions. Insomma, c'è una mancanza di dominio, di leader, che rende da un lato più divertente il campionato, perché non si capisce bene dove va a finire, non c'è un dominio incontrastato. Dall'altro però comincia a preoccupare soprattutto i tifosi dell'Inter, perché l'Inter è a 4 punti, minimo storico, e Moratti non sa più a che santo votarsi. Ha mandato via l'allenatore, adesso ne ha un altro che non può mandare via, se la prende col palazzo, dice che è colpa degli arbitri, eccetera, però insomma è così. E adesso si riparte con la Champions League, sia l'Inter che il Napoli giocano già domani. Chi è messa peggio però è proprio l'Inter. Esattamente, Piera, perché se l'Inter perde a Lille, che non è una squadra insuperabile, però tutto diventa più complicato, mentre per il Napoli, che gioca col Bayern, un avversario di tutto rilievo, però è comunque ancora è in una situazione nettamente migliore. Grazie a Dario Ceccarelli. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.